Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoon animati. Debbie? Can I call you Debbie? Because I felt a connection when I entered this office, and I don't know, I feel like you did too. I didn't feel a connection. Thank you. Il rumore dei britannici Fuck Buttons, a volte disturbante, ma però sempre affascinante. Questo è ovviamente un parere soggettivo, come tutti quelli che do in onda, su cui voi poi avete possibilità di intervenire o scrivendo a giulio@radiorockfm.com, oppure se volete renderli da subito pubblici su myspace.com/eclettica. Fuck Buttons, che ci siamo ascoltati con Sweet Love for Planet Earth. La seconda parte si era invece aperta con The Dodos, ascoltati con Fools. Seconda parte dell'ultimo giorno della settimana, visto che stiamo assieme dal lunedì al venerdì fra le 19 e le 20, a meno che, grazie al podcasting, voi non facciate scelte diverse di giorno e di orario. Stati Uniti con una band di Chicago, Illinois. Loro sono un duo, si chiamano Odawas. Il brano che ci ascoltiamo è una versione particolare resa disponibile come download gratuito per le scorse festività natalizie. Era un brano che originariamente era stato destinato a More Animals of the Arctic, quello che è il progetto collaterale del frontman degli Odawas, ovvero sia Michael Tapscott. Però per le festività natalizie appunto è stato ripreso in mano, è stata modificata la musica, remixata dagli stessi Odawas e aggiunta una nuova traccia vocale. Ed è il motivo per cui poi in playlist lo troverete indicato come Odawas Remix. Ah, Teddy Roosevelt, right? Yes, great visionary. Yes, definitely. He was our fourth president, right? 26th. 26th. gloom and oil falling down into the soil, and we don't know who they are, fading like a shooting star. I'll come down into their well, no more secrets left to tell, and the seasons fade. Nella stanza da pranzo della nonna c'era un armadietto chiuso da uno sportello a vetri, e dentro l'armadietto un pezzo di pelle. Il pezzo era piccolo, ma spesso e coriaceo, con ciuffi di ispidi peli rossicci. Uno spillo arrugginito lo fissava a un cartoncino. Sul cartoncino c'era scritto qualcosa con inchiostro nero sbiadito, ma io ero troppo piccolo allora per leggere. «Cos'è questo?» «Un pezzo di brontosauro». La mamma conosceva i nomi di due animali preistorici, il brontosauro e il mammut. Sapeva che questo non era un mammut. I mammut venivano dalla Siberia. Questo era l'incipit di In Patagonia, di Bruce Chatwin. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 11, volume numero 5. Indice: Juliana Berwick, Tiago Lies Losing the Plot, Beach House, Woog Riots, Kiddy Car, Shoo Shoo, The Dodos, Fuck Buttons, Oda Was, The State of Samuel, Telepath. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.